Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. E bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi riusciamo a cominciare puntuali nonostante tu Kappa abbia cercato in tutti i modi di farci arrivare in ritardo. No, mi dovevo lavare le mani, non è che dovevo arrivare in ritardo. Ho capito, dovevo però lavarmi le mani. Stava cominciando il programma, non importa, abbiamo rischiato l'igiene grosso. L'igiene è importante. Sì, ma Drago, ti sei messo lì a seguire le istruzioni appese al muro, manco se per lavarsi le mani bisognasse seguire un corso bene, di formazione. Devi farlo bene, cioè si è scritto Organizzazione Mondiale della Sanità, istruzioni per lavarsi le mani, è importante. Adesso lavati le mani, vieni, cosa fai? Io cosa faccio? Ah, va bene, è vero. L'immancabile appendice. Bisogna lavarsi le mani. Allora. Vedi che c'è anche il cartello. Allora, come lavarsi le mani? Ma sì, ma ci hanno preso per dei bambini. Allora. Durata della procedura 40-60 secondi. Bagnare le mani con acqua. No, hai già sbagliato. Hai messo il sapone prima, dai, prima pulisci. Allora, lavare le mani con acqua. Applicare il sapone a sufficienza. Devi ricoprire tutta la superficie, poi strofinare le mani da un palmo all'altro. Ma scusa, ma non te l'ha insegnato la mamma? Palmo destro sul dorso sinistro incrociando le dita e viceversa. Strofinare attraverso rotazione del pollice sinistro sul palmo destro e viceversa. Ma cosa dice? Ma lavati le mani e basta. Vabbè, ma è importante farlo bene. Strofinare attraverso rotazione all'indietro e in avanti con le dita della mano destra sul palmo sinistro e viceversa. Ma questi sono impazziti. Ma risciacquare le mani con acqua. E poi asciugare le mani con una salvietta manubrio. Anche due, anche due, tre. Anche tre. Quattro. No, dai. Quattro. Mani grandi. E poi usare la salviettina per chiudere il rubinetto. Attenzione, questo ad esempio non è, tu l'hai già chiuso. Allora, quindi devi ricominciare. Ma no, tutto da capo. Hai dovuto ricominciare tutto da capo perché hai saltato uno step. Beh, non proprio uno step, era quello finale. Chiudere il rubinetto con la salvietta. Pensate, insomma, chiudi il rubinetto pensato e basta, dai. Che poi lavarsi le mani vuol dire tante cose. Cosa e tu lì dire? In quel momento sai bene che stavi lavandoti le mani, ma anche ignorando quella cosa là. Vabbè, lasciamo perdere. Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, senti quello che ti dice il bambino a Scagno Celestino. Ponzio Pilato. Rifletti. Si lavò le mani. Vabbè. Si lavò le mani. Nel senso, come per dire che contro l'ignoranza non si può fare niente, ma contro lo sporco la battaglia non è ancora persa. Tu mi stavi dicendo subliminalmente che sono ignorante. No, io ti stavo dicendo che se ti lavi le mani è più igienico, tutto qua. Voi che vi lavate le mani, ma avete un sacco di detrattori. Ma sembri il bambino di Pietro. Questi pavidi, queste persone senza coraggio, questi Ponzio Pilato che non hanno il coraggio di denunciare con i fatti e non solo a parole come stanno le cose. Ma ecco, vabbè, tu adesso vuoi dirmi che sono ignorante, invece ti lavi le mani davanti a me simbolicamente. Smettila con ste chiacchiere, che tra poco suona la campanella e comincia la ricreazione finalmente. Ma comincia la ricreazione che non abbiamo nemmeno ancora cominciato la nostra lezione. Vabbè, cioè, ma oggi è venerdì. Quindi? Venerdì è ricreazione, no? Ma non è venerdì pesce? E adesso, bambini, ricreazione, andiamo! Oh, ricreazione, ricreazione, vai, finalmente. Sì, finalmente il momento più pericoloso qui all'asilo, Ma come pericoloso? Sì, ma i bambini corrono, si inseguono, possono farsi male. Sì, insomma, bisogna controllarli proprio senza mai perderli d'occhio. Possono perfino tentare di scappare. Vabbè, ma che basta chipparli. Basta? Chipparli. Gli metti un chip. In California lo stanno facendo, sembra chip che funzioni. Come no? E anche in Francia lo fanno. Ma scusa, ma dov'è che glielo mettono il chip? Come i cani? Sotto pelle? Ma no, come i cani, glielo metti nel grembiulino, nella tuta da ginnastica, no? Vedrai che fra un po' lo fanno anche in Italia. Sì, però non ho capito, non sarebbe meglio che i bambini fossero osservati a vista da delle persone apposta, pagate? Vabbè, ma sono tanti, pagate, appunto. Gli insegnanti sono pochi, i bambini sono troppi. E chiediamo al bambino Albertucci se per lui il chip serve o no. Bambino Albertuccini! Comunque mi chiamo Alberto. Non so se sai che presto vi metterò nel grembiulino o nelle tute così un microchip per controllare tutti i vostri movimenti. Allora, tu cosa ne pensi? Io penso che il chip lo metterei alle signorine. Quali signorine? Quelle che ci seguono all'asilo, no? Le maestre d'asilo. Perché? Cosa fanno? Scappano? Beh, non proprio, ma quasi. Perché queste qui, durante la ricreazione, spariscono sempre. E dove vanno? Spariscono col bidello bello. Con chi? Sì, c'è questo bidello bello, no? Che lui ha una collezione di francobolli, no? Che ne parla sempre, si vanta, io non l'ho mai vista poi. E invita sempre le maestre a turno durante la ricreazione a vedere questo famoso album di francobolli. Vabbè, bella scusa, è nuova, nuova soprattutto. Nuova, sì. Ma quale scusa? Scusate, se lui è appassionato di collezione di francobolli, che colpa ne ha? Beh, poverino, sì. E poi si vede che anche le mie maestre piacciono i francobolli. Perché magari così. Perché sono grandi. Piacciono anche voi i francobolli così tanto da diventare matti? Boh, io no, sinceramente non ho nessun interesse. E io? No, dico io magari quando divento grande andrò matto per i francobolli? No, cioè proprio i francobolli sa. Forse... Ma anche poi, scusate, allora cosa servono questi francobolli? I francobolli li devi mettere sulle lettere, sulle buste. Affranchi la busta, affranchi la cartolina e poi mandi la posta, no? Beh, non ho capito. Affrancare, lettere, cartoline... ma questo cos'è? È italiano antico? Cioè robe tipo Petrarca, Boccaccio. Sì. Ma no, una volta si usavano le lettere e le cartoline. Prima che inventassero i computer e internet, si usavano le lettere e le cartoline. Si affrancavano. Basta. Vabbè, no, Tito, è qui se vai a spiegare la storia del mondo degli ultimi 30 anni, vabbè, bambino Alberto. Dai, torniamo allora. al chip. Pensi, bambino Alberto, che servirà a mettervi il chip, visto che le signorine non vi sorvegliano e vanno col bidello bello? Forse. Magari servirebbe, ma qua no. Perché? Perché qui fuori dall'asilo appena usciti e c'è la statale. E quindi? Allora anche se uno ha chip appena scappato e viene già ruotato, no? Ma cosa? Quindi il chip servirebbe giusto per riconoscere il cadavere. Ma cosa dici? Ma bambino Alberto, ma è terribile, ma è quello così, che dici. Vabbè, ma pensate, noi avevamo un gatto, no? Bello gatto, giocava con tutti. Questo qui però è durato solo una settimana. Ha ruotato. Aveva il chip, Ma ho capito. Poi è arrivato un cucciolo di cane, no? Bellissimo, peloso. Eravamo tutti pazzi per lui, E questo qui però un giorno ha trovato un buco nella siepe. Ha ruotato anche lui. E anche lui aveva il chip. Forse sto chip. Abbiamo avuto anche 2 o 3 tartarughe qui. Cos'è? L'arca di Noè? Sì, ma con loro non ci si divertiva, Perché? Questa qui avranno avuto l'età di mia nonna. Stavano fermi tutto il tempo. Non facevano un tubo. Sì, erano interessanti, L'unica cosa che potevamo fare era rivoltarle sul guscio e lasciarle lì. Ma non si fa. In ansia con le zampette in alto. In ansia, no? Le tartarughe. Vabbè. Questo qui comunque un giorno, una volta ribaltate ancora, hanno trovato il buco nella siepe come il cane. E sono andati sulla statale. E secondo voi? E schiacciate. Ha rotato anche loro. Ma solo avevano il chip. Avevano il guscio, no? Ma il guscio non ha resistito. Mi interessa il guscio, capito. C'è passato sopra un tir. Vabbè, sì. No, perché un tir lanciato a 120 all'ora schiaccia altro che una tartaruga, Poi schiaccia anche una Twingo, una Clio, una Panda. Vabbè. Vabbè. Schiaccia, Ho capito, quindi se il chip non serve, servono degli insegnanti che vi sorveglino. Almeno gatto quello che si morde la Ho coda. Capito, ma se quelli lì vanno a vedere i francobolli dal bidello. Vabbè, allora dillo alla tua mamma, perché qui rischi di finire arrotato pure tu. Le dici, mamma, all'asilo non ci sorveglia durante la ricreazione. Ma basta, ma che ansiosi che siete! Vi fa venire l'ansia anche a me. Vabbè, ma sai, la ricreazione è molto pericolosa. Potreste anche farvi male, che bambini. Sì, la ricreazione. Ma chi la fa più la ricreazione? Appunto. Da quando ci siete voi due? Con le cuffie, i microfoni, tutto sto ambaradan. Io la ricreazione me la sogno. Ma è colpa di Dan. Ma no, ma non sono io. Tutti gli altri bambini che giocano. Si menano, cadono lo scivolo, si rompono i denti. Io qua con voi a perdere tempo. No, ma scusa, noi siamo della radio News and Talk. Questa è l'intervista sui chip. Vabbè, sti chip. Se poi anche se c'è il chip vai sotto il tir. Oh, è finita, comincia il weekend. Bel weekend sotto il tir, cosa dici? No, sotto il sole il weekend. Sì, però prima bisogna ricordare ai nostri ascoltatori Kid Factor, no? Il nostro talent show, tutti i martedì, no? Bisogna fare... Il richiamino di Kid Factor. Che consiste nel far riascoltare le canzoni che abbiamo sentito martedì dei nostri due artisti Seba e Dini. Sì, ma anche i commenti del nostro giudice d'eccezione Morgan. Che abbiamo imbarcato con grande entusiasmo. E quindi direi di far sentire prima i pezzi e poi i commenti. Sì, allora sentiamo prima Dini con I Can Get No Satisfaction. I can get no. La stonatura lì di I Can Get No Satisfaction è una stonatura che è affascinante. Vedi, è affascinante. Sì, io sicuramente so che Morgan è per Dini. Sì, quello si è capito subito e influenzerà anche i voti. Però c'è anche il mio artista, che è Seba, è un punk e canta un suo pezzo originale, Gofame. Gofame! Gofame! Così me la mangia! Gofame! Gofame! Così me la mangia! È un bambino che è stato aizzato alla violenza e quindi io non sono, il bambino non ha colpa. Vedi, non gli piace, è troppo violento. Però abbiamo un giudice troppo parziale, secondo me. Vediamo come scelgono i nostri ascoltatori, che devono, ricordalo Drago, devono votare a chiedoasilo@radio24.it e dire semplicemente Dini o Seba. Poi se anche voi volete, anche se voi volete lasciare i vostri commenti, le vostre considerazioni, meglio ancora, cioè argomentate il vostro voto. Drago, okay. Weekend, ciao. Ciao. Siamo lunedì e mandate i vostri microchip a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.